Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Ancora una, poi smetto. Le serie TV consigliate da Marta Cagnola. Ultimo episodio della prima stagione di Ancora una, poi smetto. Insomma, il nostro season finale. E vogliamo chiudere con un tocco di classe, anzi di nobiltà. Andiamo a scoprire tutte le migliori serie TV che parlano di famiglie di sangue blu. Storie vere o inventate, documentari, parodie, per chi è curioso dei gossip di re, regine, principi e principesse, per chi vuole conoscere la storia, per chi ancora non ha sperimentato il genere e vuole andare a colpo sicuro. Ci facciamo accompagnare da una giornalista e appassionata di cose e case reali, Giorgia Olivieri. Con lei partiamo da una delle serie più note di Netflix, The Crown. È la serie che noi vecchie zie, diciamo, cresciute con, leggendo i rotocalchi, sfogliando, con le avventure di Lady Diana, oppure ancora prima le avventure della principessa Margaret, insomma, che magari ci raccontavano le nostre madri e le nostre nonne, attendevamo tutti. È uscita in un momento in cui, diciamo, era cresciuto parecchio anche l'hype della monarchia, c'era curiosità, la figura della regina innanzitutto ha avuto una sua rinascita negli ultimi anni, è una figura che abbiamo sempre visto con questi capelli, diciamo, un po' scultorei, no? Cioè con la stessa pettinatura, con questi vestiti, eccetera. In realtà questa serie ci restituisce l'esempio che mi viene da fare è che prima di quel momento lì avevamo una visione bidimensionale della regina, cioè ci facevamo bastare quello che veniva e tagliavamo un po' tutto con l'accetta, cioè giusto, sbagliato, bianco, nero, insomma non c'erano, diciamo, le sfumature di grigio, più o meno 50, insomma, non le contemplavamo. In realtà il pregio di questa serie TV, mi rifaccio sempre a una questione generazionale, di noi ragazze cresciute sfogliando le avventure di Lady Diana, ma soffrendo anche con lei per le sue vicissitudini amorose, senza considerare il dolore provato diciamo in quella drammatica fine di agosto del 1997, quando Diana ci ha lasciati a causa di questo drammatico incidente a Parigi. La vulgata era, insomma, che un po' ce la dovevamo avere con la regina Elisabetta, no? E quindi comunque tendevamo ad attribuirle grandi responsabilità. E secondo me non è un caso che sia un punto cruciale questo qui di Lady Diana, perché lo showrunner, quello che io chiamo sceneggiatore, diciamo, è proprio lo stesso Peter Morgan che nel 2006 scrive il film The Queen, in cui ci descrive, ci racconta il dietro le quinte di quei drammatici, mi pare, sei giorni, settimana più o meno, tra la morte di Lady Diana e il suo funerale. Giorgia, ti devo chiedere quanto secondo te è una serie storicamente attendibile. Peter Morgan ha una vera e propria redazione che lavora con documenti storici, una vera e propria biblioteca, e si avvale anche dell'aiuto del consulente, esperto storico, biografo dei reali, Robert Lacey. Quindi, in realtà, c'è una certa accuratezza, questo non vuol dire che non si prenda delle libertà. Ci sono siti, li vediamo continuamente, italiani, stranieri, che rispetto a degli elementi cruciali della narrazione poi ti raccontano quello che è vero e quello che non è vero. C'è da dire anche che c'è una certa eleganza comunque nella scrittura, ed è questo anche il pregio di questo racconto, che non è sfacciato, che non è pettegolo, molto, se vuoi, molto British, che fa sì che comunque sia anche molto apprezzato, per esempio, dalla famiglia britannica reale. Cioè, quelli che hanno apertamente detto che adorano questo spettacolo sono la principessa Eugenia, che dice di essere una fan, Camilla dice di aver visto qualche episodio. Harry e Meghan addirittura ce l'avevano tra gli appuntamenti della loro casa, insomma, quando erano ancora dalle parti di Londra. La regina ha confessato che un occhio ce l'ha buttato, ha sempre, no, sai, le fonti dei ben informati, mentre quello che proprio ha detto, ha risposto a una persona, alla domanda se lo stava vedendo, gli ha risposto: non essere ridicolo, io quella roba lì non la guardo. E quindi diciamo che è abbastanza attinente all'idea che noi ci siamo fatti di Filippo, forse perché anche Filippo sa che ha qualcosa da farsi perdonare, quindi probabilmente questa roba qua diventa proprio anche, no, accessibile a un pubblico più giovane, che li ha visti sempre come due teneri nonnini, teneri non tanto, nonnini sì però. Passiamo a un'altra serie TV, perché se si cercano i reali, i royals, nei motori di ricerca delle piattaforme, ci sono serie che raccontano i reali veri e serie che raccontano reali non proprio realmente esistenti o esistiti. Per quanto riguarda specificatamente una, io ti ringrazierò per tutta la vita, perché tu in una tua puntata di RadioTube hai confessato di esserti innamorata di questa serie su Netflix che si chiama The Windsors. È irresistibile. Irresistibile. Guarda, allora io posso dirti una cosa, che quando io lo consiglio alle persone che come noi parlerebbero di affari, di faccende reali per giornate intere, io quando non seguono il mio consiglio di guardarla mi arrabbio, perché in realtà è spassosissima. Chiusa la prima stagione, mi sono domandata come mai la regina non avesse fatto decapitare la produzione, diciamo, che l'ha messa in piedi, perché io una cosa così irriverente, sboccacciata, un politically correct, io non l'avevo mai vista, soprattutto perché tutti i personaggi sono quelli. Cioè non è che Camilla si chiama Carlotta, Camilla si chiama Camilla, Charles si chiama Charles, tutta la famiglia lì non fa una bella figura, anticipando poi i tempi, ecco, insomma. Diciamolo, gli scandali che hanno coinvolto il principe Andrea e che sono una parte importante di un'altra serie televisiva di Netflix, che è il documentario a puntate dedicato alla figura inquietante di Epstein, il miliardario suicida in carcere dopo una bruttissima storia di adescamento di minori. Allora, il principe Andrea che entra in quella storia vera, già qui viene descritto con toni piuttosto, come li definiamo, cattivelli. Allora, lui all'inizio è una sorta di perdigiorno, diciamo così, una persona che sia lui che Sara fanno affari deludenti, diciamo, che quindi Sara è sempre lì che elemosina l'attenzione, ma più che i soldi, più che l'attenzione. C'è da dire che nell'ultima stagione vista, insomma, gli attappano spesso e volentieri la bocca dandogli del pedofilo e dici: ma oddio, no? Beh, effettivamente fa un po' impressione, perché in questo contesto super satirico però le espressioni sono molto pesanti. Veramente una libertà di linguaggio che probabilmente noi non tollereremmo. Fa un po' impressione. Prima puoi guardarti The Crown e guardi la regina dalla sua prospettiva storica, poi ti guardi questa super sboccacciata, ma non vuol dire che non ti offra però un'altra faccia della medaglia della corona britannica, ecco, mettiamola così. A proposito di parodie, questa è The Windsors, e poi c'è un'altra serie che invece si chiama The Royals, che non è una parodia, ma che cos'è? Allora, quelli bravi, insomma, su internet, eccetera, la chiamano giustamente un guilty pleasure. Io, è vero, è una cosa che ti lascia veramente esterrefatto per la... non tanto la qualità, proprio per quanto punta a essere un po' trash, se vuoi, però poi ti cattura, no? Anche quello. È un polpettone che prende tutta una serie di vicende reali, vere e verosimili, e poi le mette tutte in un frullatore e le rielabora in salsa soap opera americana, un'americanata comunque ne fa. Avete anche una prova per la festa del giardino? E il servizio fotografico per beneficenza. Oh, e Sir Elton John ci terrebbe molto a salutarvi. a salutarmi. Dai loro un titolo e trattano questo posto come se fosse Starbucks. Allora, la regina sfortunatamente è indisposta. Ora alle 12.30. Ok, dammi l'agenda, Lucius. Siete pronta, vostra maestà? Certo che sono pronta. Sono la regina d'Inghilterra. Io sono sempre pronta. Non ha nessuna attinenza con la realtà, nel senso che è il racconto di questa immaginaria famiglia reale inglese, che però ha gli stessi antenati degli Windsor, diciamo così. Però loro si chiamano Anstridge, per dire la regina, ecco, è molto lontana dalla regina Elisabetta, perché è una straordinaria, proprio quando l'aggettivo incantevole penso che sia stato coniato per Elizabeth Arden nel ruolo di regina di questa serie, ma è pacchiana, perché noi siamo abituati comunque a vedere un po', no, anche i gioielli, roba di vetro brutta, no? Che però ti diverte per questa roba di plastica. Sì, capito? È il brutto. Quindi... che fa il giro, ma tutta la serie è un po' il brutto che fa il giro. Alla fine t'appassioni. Alla fine t'appassioni, ma c'è un dramma sotteso a questa serie. Cioè, io me la sono bevuta tutta 4 stagioni, solo che poi sul più bello si interrompe, ma soprattutto si interrompe e non ritornerà mai più, perché lo showrunner, l'ideatore, il creatore di questa serie, che si chiama Mark Schwann, è stato accusato di molestie sessuali, per cui potevano sacrificare il suo creatore, eccetera. La casa di produzione è un po' vagato per canali dicendo un po' che mi compra, e non hanno trovato niente, con grande rammarico di Elizabeth Arley, che si è un po' anche lamentata sui suoi social network. E però mi pare che lei abbia messo una pietra proprio tombale sulla questione di riprenderla un giorno, perché credo che abbiano addirittura bruciato i set, cioè quindi proprio distrutti, e quindi non sapremo mai come va a finire. C'è da dire questo, che laddove però uno pensa che sia solamente pura evasione, in realtà dietro si vede che c'è una penna esperta. Allora, curiosando un po' tra le persone che stavano dietro questa The Royals, scorgo un nome che mi diceva qualcosa, una certa Scarlett Lacey. Lacey, se ci ricordiamo bene, il nome del consulente storico reale di The Crown, e guardando su Google banalmente viene fuori che è la figlia di Robert Lacey, dello storico. Per chi la volesse rivedere, le 4 stagioni sono su Amazon Prime Video, su Sky Go e anche su Team Vision, quindi le 4 stagioni in Italia sono visibili ampiamente. Posso chiederti una cosa, Giorgia? Tu giustamente ci spieghi come alcune cose dei meccanismi reali siano spiegate, siano illustrate in queste serie, però secondo me possono anche conquistare chi non è mai stato appassionato di reali, perché secondo me c'è anche molto della storia che magari non abbiamo studiato a scuola o che ci siamo anche dimenticati. Allora, secondo me il pregio proprio di questi racconti è proprio quello. Io l'altro giorno parlavo con un amico che mi stava dicendo quanto lui piacesse The Crown, nonostante non sia un appassionato di vicende reali, perché insomma nel momento in cui ti parlano dettagliatamente di Winston Churchill, o comunque ti raccontano magari di qualche, cioè comunque la monarchia britannica, adesso al di là di quello che pensano di Pensa The Royals, che un'amica definisce, ecco, questo potrebbe essere un paragone interessante, il Gossip Girl per sui reali sulla famiglia reale. Vero. Che è molto rende l'idea, secondo me. The Crown ti racconta comunque, insomma, non è che ti racconta solamente il gossip, ma ti racconta come la monarchia britannica è stata strategica su strategica, comunque punto di vista storico, che voglio dire abbiamo letto sui libri di storia. È diciamo, come abbiamo detto prima, è piuttosto accurata. Poi uno, se vuole andare a vedere realmente cosa è successo, si prende in mano il libro di storia. Dico che se professori, io adesso a scuola manco da un po', diciamo che insomma ho qualche anno, però non so se adesso i professori di storia magari si prendono come spunto magari questo tipo di narrazioni. Potrebbe essere un modo pop anche di insegnare la storia. Ci sta che al di là del gossip, che poteva riguardare gli amori o amorazzi di Carlo, farlo, ci sta anche che uno apprenda delle vicende storiche reali e quindi che si vada a prendere la briga di approfondire, ecco. Cioè, uno può basarsi su quello che ti racconta la serie, o come potrebbe andare a prendere banalmente Wikipedia, o comunque invece andarsi a studiare qualcosa un po' più approfondito e quindi conoscere un po' della storia, che è anche la storia europea, se vogliamo. Mi viene a questo punto da chiederti di un'altra serie di Netflix, che però non è una serie di finzione e che è The Royal House of Windsor. Quest'anno la casa reale dei Windsor festeggia 100 anni sul trono britannico. Ora sono la famiglia reale più famosa al mondo e hanno prosperato mentre altre dinastie sono crollate. Hanno visto parenti deposti, assassinati o esiliati, superato faide familiari, incidenti e tradimenti, seguendo sempre una regola fondamentale: sopravvivere, in ogni modo e a qualunque costo. I Windsor hanno imparato l'arte della sopravvivenza in tempo di guerra, un secolo fa, senza mai dimenticarla. È densa, però io la consiglio perché in realtà parte dalla Prima Guerra Mondiale e ti spiega per bene, con dei documenti segreti fino a quel momento lì, come è nata la casa di Windsor, che non tutti sanno che, insomma, è una creazione piuttosto recente, no? Andrebbe veramente visto appaiato con The Crown, perché laddove c'è finzione, qua abbiamo tutto un apparato, tra l'altro c'è il solito Robert Lacey che spiega anche tra i vari storici, vedi i volti veri, vedi le vicende vere, e quindi, insomma, è sicuramente il modo di, come si dice, la visione appaiata delle due, secondo me, è molto interessante proprio per questo motivo qua. Abbiamo parlato di serie che riguardano i reali, ma in realtà ci siamo riferiti solamente ai reali inglesi, perché poi sono quelli che suscitano più curiosità, più interesse. I reali di oggi e anche i reali di ieri, penso ad esempio alla serie Victoria che troviamo adesso su Now TV, su Sky Go e su Infinity. Ma fuori dal Regno Unito e fuori dall'Europa c'è qualcosa, Giorgia? Allora, io mi sono soffermata sulla miniserie dedicata a Caterina la Grande, con appunto Helen Mirren, che insomma lei col ruolo di regina ci ha fatto l'abbonamento. Sapete cosa ho nelle mani? Il potere assoluto. Non intendo dividere il mio trono con nessuno. In Russia c'è gente priva di scrupoli. La Russia appartiene a noi! Io, fortunatamente, faccio parte. Sono sopravvissuta per mezzo secolo in un mondo che non mi vuole. Sarebbe un errore terribile mettersi contro di me. Mi ha entusiasmato fino a un certo punto, ma secondo me è un problema culturale, cioè noi siamo abituati solamente a ragionare in termini di monarchia britannica, per cui laddove si sconfina un attimo su altri usi e costumi magari rimane un attimo più interdetto, perché comunque è un problema anche di linguaggio, no, se vuoi. La serie Caterina la Grande, diciamo, è stata, l'ho vista con interesse, anche lì sono andata un po' a documentarmi. Detto questo, è una serie sicuramente a chi piacciono quelli che, insomma, penso in termini si possano chiamare ampiamente period drama. L'esempio più amato di questi period drama è Downton Abbey, creato da un'altra grande penna, diciamo, che si diletta in vicende aristocratiche, reali, eccetera, che è Julian Fellowes, che ha fatto uscire poco tempo fa Belgravia anche, dove raccontano queste vicende, no? Molto lente, molto descrittive, con questi micro colpi di scena, ma con questi grandi dialoghi, con tutto questo protocollo, questa etichetta che io capisco che non possono piacere a tutti, ma io francamente questi, diciamo, appuntamenti attorno all'ora del tè li personalmente li adoro. Un'altra cosa che mi piace molto è il doppio piano, no? Tra le vicende della servitù ai piani bassi, che guardano come se fosse la televisione le vicende dei loro datori di lavoro al piano di sopra. Non ne facciamo una questione giusto o sbagliato, è uno stratagemma narrativo, se vuoi, è un modo di raccontare molto connotato, che però io trovo molto interessante, per esempio, e sicuramente non sarà neanche troppo distante dalla realtà. Io vorrei concludere dandoti io un consiglio. Allora, è una serie un po' difficile da recuperare perché è una vecchia serie della BBC, si trovano però dei DVD in giro. Si intitolava Keeping Up Appearances, andata in onda dal 1990 al 1995, perché la protagonista, Hyacinth Bucket, anzi, lei dice che il suo cognome si pronuncia Bouquet, è una signora della middle, anzi della lower class britannica, che si atteggia a nobile ed è convinta che un giorno incontrerà la regina. Non te lo dico se incontra la regina alla fine oppure no, vale la pena cercare di recuperare Keeping Up Appearances. Ah, me lo segno, guarda, me lo segno. Io vorrei concludere però, Giorgia, tornando alla partenza, cioè tornando a The Crown. Questa serie sta ripercorrendo la vita della regina Elisabetta anno dopo anno, stagione dopo stagione, con attrici ovviamente che cambiano a seconda dell'età della regina. Sono molto curiosa perché poi in effetti nelle prossime puntate, nella prossima stagione, dovrebbe affacciarsi anche Lady Diana. Come vedi tu il futuro di The Crown e queste attrici che hanno interpretato la regina Elisabetta? Allora, guarda, per quello che riguarda il futuro c'è una curiosità che non sto nella pelle, perché finalmente non abbiamo più i ricordi ereditati dalle chiacchiere con le nostre madri, le nostre nonne, le nostre zie, ma ora noi ce l'avamo, no? E quindi possiamo dire la nostra, e quindi questo lo trovo già una cosa molto interessante. Sicuramente bisognerà vedere come Peter Morgan decide di trattare un tema che lui di fatto aveva già affrontato, perché The Queen parla comunque di Lady Diana e del rapporto della regina Elisabetta con Lady Diana. Secondo me lui approfitterà per farsi perdonare qualcosa, nel senso che secondo me sarà un po' più indulgente nei confronti della regina Elisabetta, come del resto lo è stato molto, perché secondo me lui stesso è cresciuto in questi anni nella suo giudizio, nella sua idea della regina Elisabetta. Regina Elisabetta che secondo me è una figura immensa anche grazie alle attrici che la interpretano, perché Claire Foy, che io personalmente non conoscevo, l'ho trovata veramente divina in questa interpretazione, nel modo di calarsi nella parte, prestando in maniera veramente assoluta il suo corpo, la sua interpretazione alla regina Elisabetta. Personalmente io trovo Olivia Colman una grandissima attrice, mi è piaciuta da matti su Broadchurch o su altre serie TV, così, però sono molto abituata, cioè è rimasta molto lei, quindi secondo me ha un po' rubato la scena, tra virgolette, alla regina Elisabetta. Delle prossime stagioni, non quella la quarta che andrà in onda speriamo presto, ma della quinta alla sesta, anche lì c'è un balletto per cui all'inizio dovevano essere sei stagioni, poi in realtà a inizio hanno detto che sarebbero state cinque, poi si sono messi a scrivere, hanno detto ma sai cosa, facciamone ben sei, come era da programma originario. L'attrice scelta, io sono entusiasta perché è Imelda Staunton, è un'attrice anche di teatro molto accreditata, ma soprattutto è una delle protagoniste di Harry Potter, credo che quello sia un po' quello che la fa conoscere al grande pubblico, e sono sicura che sarà una grande Elisabetta, quindi questo secondo me suggellerà un po', farà sì che questa serie sarà davvero leggendaria. Sarebbe interessante però spendere una parola sul fatto che non ci sarà la serie TV Feud su Carlo e Diana. Era stata annunciata con le fanfare che dopo Bette Davis e John Crawford insomma avremmo visto sullo schermo la faida tra Carlo e Diana. In realtà le notizie che ho rintracciato sono che comunque questa serie non si farà, e questo mi lascia un po' l'amaro in bocca, perché sicuramente sarebbe stato interessante da seguire. Probabilmente una accortezza nei confronti della famiglia, magari non hanno voluto, diciamo, mettere troppi panni, come si dice, non hanno voluto far volare troppi stracci, probabilmente, che ne sai, magari anche per rispetto dei due ragazzi, insomma, che sono ancora vivi e vegeti, e che comunque sicuramente per loro non è stato un gossip quello che ha visto protagonisti il padre e la madre, e con un epilogo tra l'altro drammatico della loro amatissima madre. Quindi gossip, realtà storiche e poi tiriamo fuori i libri di storia e ripassiamo. La cosa buffa di quando noi ci immergiamo in questo tipo di racconti è che appunto Netflix ci spara il pacchetto che noi possiamo anche divorarci in un weekend di assoluto piacere, no? Con il nostro schermo in cui guardiamo la serie TV e che quindi però, anche se sono cose vere al 95%, ci proteggiamo dallo spoiler come nelle serie TV normali, e questa è una cosa molto buffa, perché io stessa, finché non finisco di vedere una serie, non vado a vedere banalmente su Wikipedia come va a finire, perché mi voglio assaporare il gusto di guardarmi quel tipo di racconto, e solo dopo mi vado a vedere gallerie fotografiche, racconti, i confronti, eccetera eccetera, e questa è una cosa veramente molto divertente, perché come se dicessi: non mi dite come va a finire tra Carlo e Diana, no? È abbastanza buffa come cosa, secondo me, di questo tipo di racconti surreali, su altri, molti altri tipi di racconti, ma surreali questo funziona particolarmente bene. È tutto per questo episodio dedicato alle serie sulle case reali. Insieme a noi la giornalista Giorgia Olivieri. Con me a realizzare Ancora una poi smetto, Alessandro Schirano e Paolo Corleoni. Tutta la serie è sul sito radio24.it e sull'app di Radio 24 e disponibile sulle principali piattaforme di streaming. Ora. È ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, su aruba.it.